Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato pasquale, questo sabato 4 aprile, auguri a chi si chiama Benedetto, se festeggia oggi, che è uno dei tanti benedetti del calendario liturgico, oggi San Benedetto il Moro. Comunque vi teniamo compagnia noi, compari dei conti della Belva, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Oscar Giannino, si aggiungerà anche naturalmente Renato Cifarelli nel corso della trasmissione. E come sempre noi ci teniamo molto al fatto che telefoniate all'800240024 interveniate per darci le vostre opinioni sui temi che ora sinteticamente vi riepilogo, che tratteremo fino alle 12, e al 349-238-6666 come sempre i vostri sms per le vostre opinioni flash, e invece naturalmente anche per chi ha l'iPad o lo smartphone a portata di mano con l'account Conti della Belva anche su Twitter, mi raccomando intervenite. Ma intanto vi dico di che cosa parliamo oggi in questo sabato pasquale. Noi come sempre tentiamo di farvi arrabbiare un pochino su cose concrete dell'economia italiana, contando sul fatto che naturalmente poi ci sarà la resurrezione e quindi il governo risolverà tutto come sempre. Ma detto questo, di che parliamo? Partiremo come sempre sulla riflessione su alcune polemichette settimanali su alcuni conti e alcuni numeri della cosiddetta ripresa italiana. È stata una settimana con successive figure discutibili da parte del governo, che come sempre stressa i dati, e insieme al nostro Mario Seminerio faremo con voi un pochino il punto di alcuni di questi dati, nella speranza che figuraccia dopo figuraccia il governo capisca che non vanno stressati. Però sapete com'è, il nostro compito è quello di far parlare i dati per quello che sono e non per la propaganda che vogliono manifestare. Dopodiché ci spostiamo a ciò che deve avvenire in questa settimana, in cui si è promesso da parte del governo di varare il documento economico finanziario, il DEF, quindi dovremo sapere i cardini della legge di stabilità in arrivo della prossima manovra. E però noi partiamo dal fatto che finalmente abbiamo avuto la pubblicazione dei PDF di Cottarelli, della spending review. È passato solo un anno, nel frattempo il governo li aveva messi nel cassetto, i file erano molto grossi, pesanti. A Palazzo Chigi c'era una connessione molto lenta, ci è voluto un annetto per caricarli. E quindi ne parleremo con Filippo Taddei, che è responsabile economico del PD, e con uno di coloro che sono più tenacemente, ripetitivamente, alcuni dicono ossessivamente, battuto per la pubblicazione dei PDF di Cottarelli, e cioè Riccardo Puglisi. Saranno con noi per capire con due punti di vista diversi che cosa ci aspetta davvero di questi tagli di spesa, che però al più, come capirete, servono forse a evitare nuovi aumenti delle tasse che il governo stesso ha previsto per il 2016, avendo perso un anno. Poi ci spostiamo su un'altra cosa, il fisco, perché vi racconteremo la storia in questo paese che ha dato la possibilità a Equitalia di fare rateazione fino a 72 mensilità per i contribuenti in difficoltà. Avremo un caso concreto che ci spiega le contraddizioni di questo Stato che finge di essere buono e finge di essere, al massimo accetta di avere qualche difetto, ma dice io sono il buon ladrone, quello che va in paradiso con il buon signore, e invece si scopre che è sempre l'altro ladrone, quello cattivo, quello che va all'inferno e vi ci trascina. Perché? Perché vi spiegheremo il caso di un imprenditore che rateizzando si vede arrivare di interessi di mora e oneri di riscossione il 50% in più di quello che aveva rateizzato, più di 100.000 euro, che devo dire fa capire molto l'interessante per lo Stato di questo piano di rateizzazione. E vedremo se qualcuno di voi fosse in condizioni simili, anche se mi auguro non con cifre così rilevanti, se c'è qualche sentenza della Cassazione buona a difendervi contro questo eccesso di sete e di fame dello Stato. Dopodiché chiuderemo occupandoci dell'ex. L'Expo ormai arriva tra qualche settimana, avete letto in settimana, e anche noi commenteremo i dati del ritardo dei cantieri, delle opere, dei padiglioni eccetera eccetera. E proprio per questo, nel presentare un sondaggio in cui dice che invece i giovani italiani sono pieni di fiducia, di ottimismo, si aspettano miracoli da questo Expo, ma vedremo, abbiamo deciso proprio per questo, con un altro spirito, di chiedere dell'Expo alla Caritas, perché sarà anche lei all'Expo con un punto di vista un po' diverso, e magari forse è più utile sentire che cosa ne pensa la Caritas dell'Expo. Ma noi vogliamo soprattutto sapere che ne pensate voi, siate di Milano, della Lombardia o di tutto il resto d'Italia, se pensate che ci sia questo profluvio di milioni di visitatori che vengono dall'estero per rendere migliore il nostro surplus turistico, oppure se invece avete immaginato che sarà l'ennesima mezza fregatura e mezzo flop italiano per i nostri soliti problemi, inchieste, ritardi, bla bla bla bla bla bla. Ma prima della prima pausa, il consueto giro con i compari su che cosa ci ha fatto arrabbiare in questa settimana, caro Alberto. Mi ha fatto Poi devo arrabbiare il ministro Padoan che, dopo aver letto come noi insomma tutti i dati della situazione italiana, sostiene che non ci sono gli investimenti in questo paese perché il mercato non funziona. Abbiamo saputo che per 20 anni di fatto le imprese italiane non avevano mai visto una situazione di profitti così bassi, cioè abbiamo avuto il record ventennale dei profitti delle imprese. Gli investimenti pubblici non sono mai stati così bassi, pur crescendo la spesa corrente, e a colpa del mercato qualcosa non mi torna. No? Quindi vediamo se con il documento, col DEF che deve uscire in questi giorni, di cui abbiamo avuto proprio oggi le prime anticipazioni, finalmente il governo lo ripara sto mercato, per esempio stabilendo lui, come intende fare, dove investire e dove è giusto investire e dove farci gli sconti fiscali se investiamo secondo le volontà del governo. Ecco, questa cosa qua... io, per coloro che sono in ascolto, era evidentemente una battuta, non pensate che qui si immagini che sia il governo a dover decidere queste cose. Passo la parola a Mario, dai. Sì, a parte questo, io suggerirei di alzare la tassazione sulle rendite finanziarie per incentivare l'accumulazione di capitale e gli investimenti, perché pare che funzioni perfettamente e la gravità è negativa. No, io non sono incazzato perché ho deciso di smettere di essere incazzato. No, questo è un pesce d'aprile tardivo. Sono però sinceramente preoccupato da quello che leggo, parlando da milanese, anche un po' imbruttito, no? Vabbè. Del fatto che la linea 5... che è praticamente la linea metropolitana che dovrà ampliare il numero di stazioni utilizzabili in coincidenza con l'Expo, ha un ritardo, se possibile, ancora più grave di quello di Expo, almeno a leggere i giornali. Quindi si rischia il rinvio anche del collaudo, che è previsto per la fine di aprile, ma non solo, ma pare che anche la consegna dei treni sia in ritardo. Considerando che alcune stazioni di questa linea sono previste aprire solo a fine anno, a Expo terminato, e adesso abbiamo anche questa novità delle consegne in ritardo e quant'altro, diciamo che rischiamo non tanto sulla linea 5, perché comunque un patrimonio infrastrutturale della città bene o male andrà a buon fine, più male che bene, però rischiamo veramente di avere un enorme affanno, e quindi si conferma che questo è un paese strutturalmente in affanno, al di là delle manifestazioni di ottimismo. Io invece faccio uno scarto, siccome tutti i giornali sono pieni di ottimismo, di fiducia per l'accordo con l'Iran, di cui sono prese più tempo fino a giugno, però io mi limito a far riflettere chi è in ascolto su questo titolo della stampa di oggi, che restituisce la mia impressione invece, e parla uno degli ispettori delle Nazioni Unite sul programma nucleare, virgolette, titolo della stampa pagina 2, intesa buona, ma se il regime bara gli ispettori non potranno scoprirlo. Ma come? Cioè, questa è una presa per i fondelli. Dunque, questa è la mia opinione. Io la penso un po' come Bibi Netanyahu. Naturalmente sono fuori linea, cioè io sono molto preoccupato di un'intesa che vedo che serve all'Iran. Anch'io vorrei il mondo senza sanzioni, eccetera, eccetera. Ma se non ci sono le verifiche per gli ispettori, è una presa per i fondelli. Vero è che abbiamo bisogno degli sciiti contro i sunniti di ISIS, però attenzione, perché col nucleare non si scherza. Ricordatevi che lo spirito di questa trasmissione è quello... Levate la carica! Ecco, ci sentiamo tra 60 secondi. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... della belva. Allora, eccoci qui tornati con i compari dei conti della belva. Carlo Aderto, Mario e Oscar. In questa prima parte ci sarà una specie di lectio magistralis di Mario Seminario, perché io ho preso uno dei titoli dei diversi commenti che trovate se andate sul sito di Radio 24 Palinsesti, andate su Conti della Belva e lì trovate tutti i documenti per approfondire i temi di cui vi parliamo, come in ogni trasmissione. E lui questa settimana, nel commentare le diverse questioni polemiche che sono scoppiate sul tentativo del governo di forzare i numeri della ripresa, prima quelli sui mercati del lavoro, i numeri di Poletti, eccetera, eccetera, eccetera, poi l'Istat è uscito a propria volta e ha fatto vedere che le cose andavano diversamente, e poi i numeri sulla spesa e le tasse sempre dall'Istat di riepilogo del 2014. Abbiamo preso il titolo di uno dei suoi commenti, che era: ma questa è propagazia o democraganda? Che mi sembra un buon titolo per una lezione al governo e alla politica che non rispetta i numeri. Allora, vediamo innanzitutto la diversa questione le diverse interpretazioni del governo sui dati del lavoro, Mario. Sì, allora intanto c'è da dire che Istat ha introdotto una benemerita innovazione, quindi anche sui dati congiunturali del mercato del lavoro ha introdotto la media mobile a tre periodi, cioè a tre mesi, che serve a smorzare praticamente la grande volatilità del singolo dato mensile. Ma serve a smorzare soprattutto i politici che lo usano male. Sì, ma infatti è un favoloso antidoto, perché secondo me a Istat si sono un attimo stancati, diciamo, di questo lancio dell'ANSA, ogni volta, ogni mese che c'è un dato positivo, no? La famosa disciplina olimpionica del lancio dell'ANSA, che è un trionfo quando il dato è positivo e poi c'è un silenzio di tomba quando il dato è negativo, e quindi hanno deciso di usare la media mobile a tre mesi. Cosa risulta dalla media mobile a tre mesi fino al mese di febbraio compreso? Che praticamente in questo paese non si è creata occupazione aggiuntiva. E questo è un dato che sinceramente dovrebbe servire a fare giustizia di tante interpretazioni abbastanza propagandistiche. Però ribadisco ad nauseam, non è che io sono qui a ballare di gioia quando escono dei dati negativi. No, ci mancherebbe, ma mica tanto, perché c'è un discreto numero di fessi che è convinto che io faccia dei riti satanici affinché questo paese vada all'inferno. Però non è così. Bisogna distinguere. Capisco, diciamo, il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, però c'è un'altra forma di ottimismo, che è l'ottimismo della propaganda, che sinceramente ha stancato e sta diventando anche un problema democratico e per l'informazione di questo paese. E quindi a questo proposito segnalo che anche a seguito della alcuni articoli di stampa, tra cui diciamo il Sole 24 Ore, e anche di una sorta di richiesta formale che io ho molto apprezzato da parte di Luca Ricolfi, sempre dal Sole, il ministero, cioè di avere i dati mensili di attivazioni e cancellazioni dei rapporti di lavoro, delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro. Il dato positivo è che il Ministero del Lavoro ha accettato, e quindi dal mese di aprile avremo i dati di attivazioni e cancellazioni, che serviranno in una sorta di tripudio di trasparenza a farci capire effettivamente come sta andando il mercato del lavoro. Se voi pensate che alcuni giorni fa il governo, nella persona del Presidente del Consiglio, ma anche dello stesso Ministro del Lavoro, ha fatto uno spin assurdo, praticamente esaltandosi per questi 79.000 posti di lavoro creati in più nel bimestre febbraio-gennaio 2015 rispetto allo scorso anno, omettendo le cancellazioni, cioè sempre prendendo il lordo anziché il netto, perché è una caratteristica di questo governo, no? Disinteressarsi del netto, che è l'unico dato che conta, e prendere il lordo. Allora, il fatto che, ripeto, Istat ci fornirà sia le medie mobili e che il Ministero del Lavoro ha accettato, secondo me perché non poteva fare altrimenti sarebbe stato un problema di credibilità e scivolavamo inesorabilmente verso l'Argentina, avremo dati mensili, ovviamente soggetti a revisione, come sempre, però avremo il polso ad alta frequenza di come sta andando il mercato del lavoro italiano. Se posso dire però, Mario, diciamo che un'altra cosa, considerare l'indice sul mercato del lavoro come un indice a sé stante, autonomo, indipendente, senza correlarlo al PIL, vuole dire raccontare una storia sbagliata agli italiani. Sì. Non può crescere l'occupazione se non cresce il PIL, se non decresce la produttività. Certo. Promettere un milione di posti di lavoro, chi è che l'ha fatto non mi ricordo più, ultimamente lo fanno in tanti. Vuol dire promettere un aumento del PIL di parecchi punti percentuali, che sappiamo perfettamente che non può realizzarsi. Quindi scorrelare completamente, considerare le proiezioni del mercato del lavoro come se fossero una cosa indipendente, è proprio sbagliato, vuol dire gettare fumo negli occhi degli italiani. Non si crea lavoro senza un aumento complessivo dell'attività economica, se no vuol dire che si crea lavoro a basso costo, sottoqualificato e senza produttività. Assolutamente, sì. Allora, questo è, diciamo, la sintesi di una delle polemiche più divampanti, no? Nell'ultima settimana, avrete capito, il ministero ha dovuto innalzare bandiera bianca e darà i dati al netto e al lordo non solo delle cessazioni ma anche dei settori su cui non c'è la decontribuzione, perché non bisogna solo guardare a quello per mettersi la medaglietta, ecco l'effetto della decontribuzione, molto apprezzabile, molto consistente sui contratti a tempo determinato stabiliti dalla legge di stabilità. Poi, sì, valutando anche magari qual è il plafond complessivo, esatto, che ci possiamo permettere, che se non ci sono coperture, promettere dei contribuzioni ad libitum quando non sono coperte è un altro modo per ingannare gli italiani e gli imprenditori. Non c'è dubbio. Noi vi ricordiamo che nel frattempo sono usciti anche dei numeri dell'Istat complessivi sul 2014 che fotografano la realtà rispetto a spesa, tasse, deficit, andamento del reddito pro capite degli italiani e spesa al consumo, e quindi siete ufficialmente tenuti tutti quanti a mettervi a ridere quando vi dicono che le tasse stanno scendendo e che la spesa sta scendendo. Il totale della spesa pubblica è ancora, sia pur lievemente, in crescita, ma comunque è in crescita, 51,1% nel 2014. Il totale delle entrate pubbliche, che non è solo la pressione fiscale, di tutte le entrate pubbliche, pressione fiscale sono solo imposte più contributi, ma il totale delle entrate pubbliche è salito anch'esso e sta al 48,1%, la differenza è il 3% di deficit, appunto, che si è fermato a pochi millimetri dal tetto europeo per la procedura di infrazione. Quanto alle imprese, nelle imprese, da che l'Istat rileva la serie storica dei profitti sul valore aggiunto, nel 2014 è il minimo storico, quindi questo deve valere anche per i politici che dicono: e adesso le imprese facciano il loro dovere, sabotatori che non spirano con tutte le gote gonfie nelle vele della ripresa. Certo, quando sei al minimo dei profitti, il minimo dei profitti significa che grande roba per investire non ce l'hai, per essere chiari. Poi il reddito, questo è importante, c'è un segnalino che riguarda il reddito pro capite delle famiglie, che dopo anni in cui cadeva, nel 2014, ciao, più 0,2%, che però è apprezzabile, e questo ha iniziato a tradursi in un più che proporzionale, anche se di pochissimo, di un fiato aumento dei consumi interni. Aumenta la propensione al risparmio, di questo abbiamo già parlato tante volte, perché di fronte all'aumento della pressione fiscale eccetera eccetera, la gente mette da parte l'effetto ricardiano invece che consumare, esatto, il che spiega il famoso effetto degli 80 euro che non tirano i consumi, che non è anche questa una roba che si dovesse scoprire nei fatti, perché gli italiani da questo punto di vista sono ragionevoli, sono razionali, vedono che le imposte locali vanno come vanno, pesanti, no, vedono... ma lo vedessero, la verità è che nessuno glielo dice, cioè devono scoprire strada facendo dal portafoglio, esatto. Quindi, sulla loro pelle. Cioè, quindi la comunicazione su, anzi la mancata comunicazione sulle imposte ovviamente provoca accaparramento di risparmi, perché uno deve anticipare una inattesa mossa dello Stato. C'è da dire una cosa per quanto riguarda la lotta alla propaganda, che mi pare stia diventando un'emergenza democratica in questo paese. Devo dire che questa propaganda sta oramai investendo anche aziende pubbliche, e questo è oggettivamente preoccupante, perché ad esempio si segnala in questa opera di rigonfiamento, diciamo, dei dati, purtroppo il nostro gestore della rete elettrica Terna, che ieri ha pubblicato il comunicato mensile sui consumi di elettricità a marzo, ed è un capolavoro. Perché naturalmente, lo spieghiamo a casa, i consumi elettrici dovrebbero essere un indicatore di come va l'attività, esatto, economica. Un'evidenza aneddotica. Allora, il primo paragrafo del comunicato di ieri di Terna è meraviglioso, perché dice: continuano a marzo i segnali positivi sulla domanda di energia elettrica. Nel mese scorso il fabbisogno di elettricità in Italia è stato di 26,5 miliardi di kilowattora, più 1,1% rispetto al corrispondente mese del 2014. Si tratta dell'incremento più alto della domanda di energia elettrica da agosto 2012, cioè da 31 mesi. Al che uno dice: è in atto uno dei più grandi boom economici che la storia italiana ricordi. Esatto, sono elettrizzato. Abbiamo avuto finalmente la scossa di cui avevamo bisogno. Però, nel secondo paragrafo del comunicato Terna, si scrive: la domanda elettrica di marzo 2015, al netto degli effetti congiunti di calendario e di temperatura, rimane invariato. E qui siamo rimasti veramente, ci è pancata la corrente. Rispetto al corrispondente mese del 2014, infatti, si è avuto un giorno lavorativo in più, 22 contro 21, e una temperatura media di circa un grado inferiore. Allora, amici delle relazioni esterne di Terna, che fa anche rima e cacofonia, perché scrivete un primo paragrafo così trionfalistico per poi demolire la realtà fattuale nel secondo paragrafo? punto di domanda. E la risposta te lo io, terna, quaterna, cinquina. E danno i numeri all'otto in effetti questa gente, quello è il problema. No, comunque voglio dire, attenzione, perché oramai l'elemento che più volte ha fatto, si è affacciato nei comunicati del relativi ai consumi di elettricità nel nostro paese è stato quello di identificare oramai le temperature, cioè l'effetto climatico, come un potenziale nemico del governo, perché il problema è che ovviamente se non fa freddo abbastanza i consumi non risalgono, ergo sembra che le cose vadano male. Quindi quando si inizia ad avere, secondo me, questo riflesso condizionato contro la natura e l'universo, vuol dire che i limiti della propaganda sono veramente... No, no, ormai siamo sconfinati nella psichiatria, secondo me. Piove, diciamo, governo elettrico, potrei dire. Esatto. Beh, ma come il tweet del nostro premier, no, di sabato scorso, dal 1 aprile, cos'è che è? C'è una diminuzione della bolletta di luce e gas. Sono piccoli passi, ma è la volta buona. Ecco, per cui, e domani è Pasqua, ce l'abbiamo fatta. Allora, tutto questo, cari ascoltatori, perché questi numeri sono lo sfondo della nuova manovra che verrà descritta nel DEF che arriva dopo Pasqua. È un DEF che parte dall'aver messo da parte i tagli di spesa di Cottarelli, perché c'era una cosa importante da fare, perché il governo ha scelto il bonus 80 euro l'anno scorso, l'ha confermato quest'anno e ci ha aggiunto la decontribuzione, ottime misure, però non ha tagliato la spesa, e per questo ha dovuto scrivere clausole di stabilità, cioè di aumenti fiscali dal 2016, 2017 e 2018 per insomma 36 miliardi di euro, che cominciano con più di 13 miliardi nel 2016. Allora, questi numeri danno l'idea di quale basso sia il margine per poter muovere posto, perché la crescita rimane quella che è, un po' bella inferiore alle aspettative. Vedremo se il governo dirà più 0,7% invece che più 0,6% nel suo DEF come aveva previsto prima, ma capite che siamo a 0, e gli aggregati a cui fa riferimento sono questi qua. E allora, proprio per questo, adesso andiamo in pausa, ma torniamo approfondendo la questione. Ma i tagli di spesa che promettono di fare adesso non era meglio farli un anno fa? E comunque li faranno davvero adesso? Ci credete? Telefonateci all'800240024. A tra poco. Della Belva. Eccoci qui tornati in diretta ai compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. E Oscar Giannino, lo sapevamo che la nostra controversione del professor Seminario dei dati settimanali della loro lettura risulta un po' urticante. Caro Alberto, diamo un po' lettura dei nostri fedeli ascoltatori, che cosa ci dicono. Ci dicono che questo sarcasmo è insopportabile, siamo tre professori del nulla, hai capito Mario? Vabbè, ti sei autocensurato? No. Cosa dice? Che, come inizia l'SMS? Che trasmissione di merda! Dice questo, ecco. Perché non, qualcun altro dice tutti bravi a criticare, andateci voi a risolvere i problemi del paese. Però c'è Andrea da Padova che dice: ho la sensazione che la vostra trasmissione sia attendibile, ripeto, sensazione, non provo lo stesso quando leggo i giornali, i telegiornali. Vabbè, grazie infinite, Oscar. Vabbè. Ecco, la sensazione che io ho pagato, sei tu che hai mandato. No, è che io la sensazione che provo quando leggo i giornali è di non muovermi, perché sennò mi faccio del male. Esatto, assolutamente. No, questo muoverti, solo per dire muoverti. Che noi tentiamo di non fare sarcasmo, noi tentiamo di stare a un'analisi dei dati e al fatto di sensibilizzare voi sul fatto che i dati vanno rispettati per quello che sono, capite? Per quello che sono. Poi le opinioni legittimamente opposte, contrapposte, dissacratorie, ma i dati, non si può far dire ai dati quello che i dati non dicono. Se un ministro Poletti e un premier vi dicono 79.000 posti a tempo determinato in più e vi nascondono che è un dato senza le cessazioni, quindi non è un dato netto, perché col dato netto si riducono alla metà, voi dovreste arrabbiarvi e ringraziare chi fa notare che i dati si danno diversamente. Se vi danno i dati dell'effetto della decontribuzione senza citarvi i settori a cui non si applica, cioè i collaboratori domestici, la pubblica amministrazione, veniamo tutti presi per il culo e dovreste ringraziare che qualcuno fa questo mestiere di ricordare che invece i dati vanno dati correttamente, e così via. Se si arriva al punto che la temperatura è nemica della crescita, che non fa alzare la domanda elettrica, capite che siamo alla neuro ed è necessario che qualcuno ci sia. Insomma, come ha detto il Luca Ricolfi ieri, attenzione, perché queste polemiche sui dati scorretti dati e sulla politica che si incazza a chi dice quando fai notare che sono scorrette, pongono due grandi problemi: il fatto che ci siano giornalisti, quindi io parlo innanzitutto per me autocritico, più ignoranti che faziosi, e il fatto che ci siano anche molti accademici più faziosi che ignoranti, che è una bella maniera per esprimere. Comunque, quando i dati vengono letti con sarcasmo, perché le statistiche sono una tragedia, questa è la verità. No, ma non è solo quello, c'è gente che è convinta che il fatto che noi si esprima scetticismo circostanziato con i numeri eccetera porti sfiga, porti sfiga. Quindi è il trionfo del pensiero magico. Questo è un paese profondamente immerso nel pensiero magico. State tranquilli, io non sono in grado di influire nemmeno su me stesso, per cui anche se io vi dico che questi numeri sono farlocchi, state tranquilli che non porta sfiga. Cercate di essere un po' più razionali e vedrete che vivrete meglio. Allora voltiamo pagina e andiamo con due ospiti a un'altra cosa importante che è venuta questa settimana, perché questa settimana il governo, dopo un anno, ha accolto la campagna di chi, anche noi, diceva pubblicate i materiali che non avete pubblicato, effetti dei gruppi di lavoro guidati da Carlo Cottarelli, che era il commissario alla spending review che il governo Renzi aveva trovato in eredità dal governo Letta e che poi è tornato in America dopo aver visto pubblicata poca roba di quelli che dovevano essere 25 gruppi di lavoro, poi in realtà il lavoro finale non l'hanno consegnato in pochi. Questa settimana voi trovate sul sito del Tesoro finalmente pubblicati i materiali di alcuni di gruppi di lavoro che non avevano avuto pubblicazione. Io vi consiglio di cominciare dalle 107 pagine relative ai costi della politica. Io sottoscrivo quelle 107 pagine dalla prima all'ultima, nel senso che si propongono per esempio cose tipo che i politici non dovrebbero avere la possibilità di continuare a percepire sia pensione che retribuzione continuando a essere pagati, come capita a tutti quelli che vanno in pensione ma vengono poi confermati in incariche, eccetera eccetera. C'è una bella batteria di abolizione di tutti i sussidi, gli incentivi indiretti comunque che restano a partiti, i loro organi, eccetera eccetera. C'è la richiesta di una disciplina per le fondazioni politiche, vedete cosa sta succedendo nelle inchieste in queste settimane. Sono 700 milioni solo da quello, per essere chiari, però non sono 700 milioni ben fatti. Non vi dico poi cosa penso delle partecipate eccetera eccetera, ma insomma, per capire adesso che cosa ci aspetta di quel lavoro, lo vedremo tradotto immediato in interventi. Ma che cosa ha detto questa settimana Enrico Morando? Te lo ricordi, Mario Seminerio? La settimana scorsa, che bisognava tagliare praticamente, bisognava portare il costo del lavoro italiano in linea con quello tedesco. Per fare questo occorre un taglio di 2 punti di PIL all'anno. Quindi siamo di poco più di 2 punti di PIL, quindi siamo nell'ordine dei 36-37 miliardi. Noi abbiamo fatto notare che questo va fatto tagliando la spesa, esatto. No? Ma perché se aumentiamo la tassazione sulle rendite finanziarie pure, alla fine ci espropriano. E alla fine questo sarà il primo paese comunista, diciamo, dell'Occidente, membro della NATO. Questa e saremo riusciti a raggiungere gli obiettivi di generazione di comunisti. Questa settimana l'ha ripetuto, aggiungendo un secondo paragrafo, il vice ministro Morando, dicendo però i tagli di spesa su cui si lavora adesso, cioè quelli di cui parliamo adesso, dopo un anno per su Cottarelli, devono avere come primo obiettivo quello di evitare lo scatto del primo gradino delle clausole di salvaguardia fiscali, cioè appunto dei 13 miliardi che il governo ha dovuto mettere nel 2016. Quindi, quando anche si facessero un anno dopo i tagli di spesa, non servono più a tradursi in meno tasse, tantomeno nell'ottenere l'obiettivo che dice Morando di abbattere il gap totale di 36 esatto. miliardi con la Germania. Servono, se va bene, ma se va bene, semplicemente a non fare ulteriormente crescere la tasse che il governo ha scritto nelle tavole pluriennali della sua legge di stabilità. Nel frattempo, noi vi ricordiamo che i tagli di 5,1 miliardi agli enti locali disposti con legge di stabilità, siamo ad aprile, sono ancora aperti i tavoli su come attribuirli, sì. Quindi questo per essere chiari. Naturalmente noi siamo ipercritici, ma vediamo gli ospiti che abbiamo come la pensano, perché noi da una parte abbiamo il professor Riccardo Puglisi, che è ricercatore in economia politica all'Università di Pavia, scrive sul Corriere cominciò la campagna per la pubblicazione dei PDF Cottarelli, avendo partecipato anche lui in un gruppo di lavoro alla redazione di quei testi, che ringraziamo di essere con noi. Buongiorno Riccardo Puglisi. Buongiorno a voi, buongiorno agli spettatori. E Filippo Taddei, responsabile economico del PD, anche lui è un economista, persona stimatissima da parte nostra, come molti altri, ma che qui ovviamente deve fare la controparte, cioè deve dirci, non la controparte, deve dirci come la pensa il PD e il governo su questo. Grazie di essere con noi, Filippo Taddei. Buongiorno. Riccardo Puglisi, a lei per così dire argomentare cosa si aspetta adesso e che cosa ha capito di questi materiali per un anno nel cassetto. Beh, innanzitutto alleluia, alleluia, alleluia, nel senso che il governo ha avuto il garbo di diffondere questi documenti. I documenti erano stati conclusi a marzo, io scrissi questo pezzo per il Corriere a metà luglio e in particolare successe che perlomeno il rapporto a cui avevo partecipato, capitanato da Massimo Bordignon della Cattolica, cioè quello sui costi della politica di cui avete parlato prima, in realtà è uscito a luglio, quindi questo è l'unico che è uscito subito. Ritengo che si sia perso un anno dal punto di vista del dibattito pubblico, perché come si dice erano disponibili le slide di Cottarelli riassuntive, ma questi rapporti non erano disponibili, e il fatto che l'opinione pubblica non sappia fa pensare che dal lato della politica ci sia della cautela nel mettere in campo, nell'implementare i vari tagli suggeriti. Poi evidentemente si tratta di suggerimenti tecnici, ma se la politica non interviene poi ci si ritrova in una condizione di ritardo perenne, per cui bisogna inseguire le clausole di salvaguardia, ovvero si prevede di fare qualcosa in termini di spesa per assicurare, diciamo, quelli che ci prestano i soldi, e l'Europa dice no, attenzione, ci sono degli aumenti di IVA e di accise nel caso non si raggiungessero gli obiettivi di taglio di spesa, e poi tutto quanto diventa dobo fare qualcosa perché altrimenti scattano gli aumenti di tasse. Quindi diciamo la grande incognita che schiaccia come un macigno l'economia italiana è l'incertezza dal lato della tassazione. Torno brevemente al tema del viceministro Morando, che ha detto di peggio, perché nella trasmissione L'aria che tira, un dibattito con il sottoscritto vostro affezionatissimo, è riuscito a darmi del mentore nel momento in cui ricordavo un fatto scritto sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero sia che il taglio IRAP nel 2014 non c'è. Quindi se da una parte non si è trasparente dal lato documenti tecnici su come tagliare la spesa, dall'altro lato c'è cautela sul tagliare la spesa, e poi si nega il fatto che non toccando la spesa si sono ottenute alte le tasse, ma io non so veramente dove si va a finire dal punto di vista. Se posso, Riccardo, se posso, qui sono due punti: uno è la trasparenza e l'altro la decisione sul tagliare le tasse. Certo. Si è criticato, secondo me correttamente, sul fatto che questo fosse stato affidato a dei tecnici, capitano da Cottarelli, c'è dentro tanta intelligenza italiana nel lavoro che ha prodotto questi PDF. Mi fai un commento su questo punto qua, cioè conoscere da una parte, deliberare dall'altra, ma affidare il tutto alla politica e non ai tecnici? Allora, io penso, nel frattempo, cioè mentre attendevo il benigno atto da parte del governo di rendere disponibili questi documenti, mi sono un po' informato, sono per esempio andato a vedere altre esperienze, in particolare in termini comparati, le esperienze di spending review di altri paesi come la Gran Bretagna, in cui vanno giù seri, nel senso che c'è una commissione tecnica, ma la commissione tecnica è molto collegata, è integrata con le procedure del budget ordinario, cioè c'è un avallo politico, tanto per usare un termine un po' aulico, ovvero sia la commissione presenta i suoi risultati, dall'altra parte c'è la volontà politica di farlo. La questione è che bisogna conoscere, cioè evidentemente il governo conosceva questi documenti, anche se ho letto qualche volta un'intervista di Renzi in cui diceva di non aver mai ricevuto questi documenti, quindi già questo mi sembra strano, cioè non capisco come funzionino i rapporti interni. Forse Taddei ci può illuminare, l'amico Filippo ci può illuminare su questo tema, ma a un certo punto sembrava che neanche Renzi avesse visto questi documenti. Per forza, sai che come allegati a un tweet non riesce a leggerli, quindi devi mandare composta certificata, non è detto che la sappiano aprire. Non esageriamo. Però lo scrutinio dell'opinione pubblica è importante, i media sono il disinfettante, come diceva un Brandeis, il giudice della Corte Suprema americana, sono il disinfettante della politica, non nel senso che tutto quello che si fa in politica è male, però nel senso che se schifezze ci possono essere rallentamenti eccetera eccetera, quindi è tutto collegato. Allora, tutto diciamo collegato. Che abbiamo fatto risuonare a lungo la campana dell'accusa e quindi dovremmo sentire a questo punto la campana della difesa, a cui abbiamo riservato altrettanto tempo, perché adesso abbiamo l'interruzione di un minuto e poi torniamo per sentire con Filippo Taddei tutta la controffensiva, la controargomentazione a noi che siamo ipercritici. Io ringrazio i tanti che hanno mandato messaggi invece dicendo che dobbiamo continuare con la nostra trasmissione così. Ringrazio quelli che naturalmente dicono che siamo anche dei gufi, eccetera, eccetera. Ringrazio anche quelli che naturalmente, capita, ce ne sono due oggi, ma va benissimo così, e che naturalmente mi insultano dicendo che io devo piantare di blaterare, che devo baciare dove cammino perché mi danno da lavorare, eccetera, eccetera. Però detto tutto questo, rispetto tutti quanti, ma ci sono anche tanti che dicono che bisogna continuare. I numeri vanno rispettati. Ok, tra un minuto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando di Spending Review, rapporto Cottarelli, cosa ci aspetta con il DEF, con i compari Carlo Alberto, Mario e Oscar, e abbiamo avuto come ospite, è ancora collegato con noi, Riccardo Puglisi, ed è collegato con noi Filippo Taddei, responsabile economico del PD. Allora, Taddei, siamo stati un po' pesanti nel criticare così tanto il governo, lei che dice? No, ma voi siete stati invece corretti. E proprio nell'insegna della correttezza mettiamo in fila un paio di cose, facciamo tesoro dell'esperienza passata. I numeri si rispettano, e proprio perché si rispettano, però si rispettano tutti naturalmente, e si rispetta in particolare l'operazione che sta dietro i numeri, cioè la trasparenza. Quello che cosa abbiamo imparato dal lavoro di Cottarelli, e che cosa quindi ha generato un cambio di modo di lavorare. Cottarelli ha fatto un lavoro egregio che io difenderò fino alla fine, perché poi gli è stato imputato responsabilità che non stanno a lui, di identificare quali sono le funzioni di spesa dello Stato italiano su cui si può più verosimilmente intervenire, perché ci sono, secondo una varietà di considerazione, ambiti di intervento principale. Che cosa è mancato al lavoro di Cottarelli? Non per responsabilità sua, ma per responsabilità, penso, collettiva, nostra, del governo, delle forze politiche, la microeconomia sottostante la macro. Cioè, si è pensato al seguente approccio, che è l'approccio di tipo inglese per la spending review all'italiana, che è il seguente: tu vai dal, identifichi la funzione di spesa, dove vuoi incidere, vai dal ministero competente, gli dici: carissimi, bisogna tagliare di questo, fate voi come, che è esattamente come è stato fatto in Inghilterra. La differenza è che in Inghilterra arrivava il Prime Minister Office, cioè l'ufficio del primo ministro, a quel punto, nella misura in cui i ministri non si adeguavano ai tagli che venivano realizzati, aveva la facoltà di segnalare e di intervenire dopo. Questo intervento però, non, né in Inghilterra né in Italia, non lo puoi fare se non cali un attimo nella microeconomia che sta dietro quei tagli. Cioè, non basta più solamente dire che sulla funzione della costi della politica intesa in senso lato, come gestione dei servizi pubblici generali, cosiddetti, sono quella funzione di spesa secondo la categoria Eurostat, noi siamo almeno un punto di PIL al di sopra di tutti i nostri partner europei, Gran Bretagna, Germania, eccetera. Ma dietro quel punto di PIL ci sono una miriade di spazi e di modalità di intervento. Quindi o tu hai la capacità tecnica e anche la determinazione politica per identificare quegli spazi e dire quali sono e farli emergere, oppure la spending review, la revisione della spesa, è destinata a fallire. Per cui cosa facciamo in quest'anno, nel 2015, per fare in modo che la spending review abbia un maggior successo rispetto agli anni passati? Ora, rispetto a un maggior successo, io sono probabilmente il più feroce sostenitore della revisione della spesa per quello che riguarda sia il Partito Democratico che il governo, quindi non dovete convincere me, però quello vorrei che facessimo tesoro degli errori passati. Quindi noi si parte oramai qualche settimana fa identificando non solamente una controparte, un lavoro che viene svolto al Ministero del Lavoro, ma l'ufficio del Primo Ministro, la Presidenza del Consiglio, si fa carico di un lavoro diciamo microeconomico, cioè di dettaglio. Da questo incarico a due consiglieri economici del Presidente del Consiglio, che sono appunto Roberto Perotti e Göran Gutgeld, che hanno questo esattamente un fine metodologico molto preciso. Benissimo, i rapporti sono stati resi pubblici, avete perfettamente ragione, dovevano essere resi pubblici prima, tutto d'accordo, però poi quei rapporti apriteli E dentro, ad eccezione dell'ottimo rapporto sui costi della politica, dentro quei rapporti c'è veramente poca roba. C'è poca roba nel senso che non mi aiuta come decisore politico a incidere e intervenire. Allora io faccio un passaggio ulteriore. Identifico effettivamente qual è l'ammontare dei costi opportuni, chiamiamoli costi standard per semplificare, per tutte le funzioni. E lo faccio in maniera dettagliata, estremamente variegata. A quel punto io ho non solamente la capacità politica per dire al tal ministero o al tal livello di governo, regione, comune o defunta provincia, spendete troppo in quella funzione, ma posso fare molto e molto meglio. Posso dire, guardate, in particolare all'interno di questa funzione, la vostra spesa è particolarmente strana. La riprova che questa operazione è seria non sta solamente nella figura di Perotti o Gutkeld, che sono due degnissime persone che chiaramente non è che lavorano da soli a una operazione gigante come questa, che io voglio ricordare sempre a tutti, è di rapporti sulla revisione della spesa, ne abbiamo visti passare attraverso i governi per anni e anni, quindi è un'operazione gigante. Ma la riprova di un salto nella trasparenza sta in quello che già voi osservate, senza credere le mie parole. Il fatto che esista un sito totalmente sottovalutato nel dibattito pubblico, che è appunto questo soldipubblici.gov.it, no? Che vi dà esattamente il segno che non solo tu puoi fare trasparenza sul modo effettivo in cui noi spendiamo i soldi dei contribuenti italiani, ma arrivi a un livello di dettaglio che sinceramente è sorprendente, ma non è sorprendente, in realtà è strumentale. È strumentale a raggiungere l'obiettivo. Allora io faccio solo tre osservazioncine, di cui devo chiedere però di essere più sintetico, perché vedo che non l'abbiamo interrotto. Allora, è ragionevole immaginare che dopo un anno passato si mettono in cantiere provvedimenti tali non solo da non far aumentare le tasse con le clausole di salvaguardia previste dal governo, ma anche che si possano tradurre in ulteriori sgravi fiscali dei quali secondo noi ci sarebbe bisogno per dare più forza a questi un po' esili segnali di ripresa? Punto numero uno. Punto numero due: non si ricasca nella solita storia per incarichi di interventi micro, per dare gli strumenti, come ci ha detto lei, micro, per intervenire la spesa, ma da fuori delle responsabilità politiche e dei vertici amministrativi, direttori delle direzioni generali del MEF e dei ministeri, di avere un lavoro che poi non ha la capacità di incidere politicamente, visto che, come ha detto lei, bisogna poi convincerli i ministri e i partiti a tagliare queste due cose qua. Perfetto. Sul primo, l'impegno, io le posso solamente portare l'impegno al momento. L'impegno è esattamente spostare pressione fiscale da chi lavora e produce in questo paese, assorbendo quei 2 punti di PIL a cui faceva riferimento Morando. Senza dimenticare però che qualcosa è stato già fatto quest'anno. Possiamo dissentire sulla distribuzione di quella riduzione della pressione fiscale su imprese e lavoratori, ma non possiamo disconoscere che è avvenuta nel 2015. Neanche disconoscere che per criteri contabili, lei lo sa meglio di me, quella non è una diminuzione della pressione fiscale, ma è più spesa. No, ha ragione, però attenzione, i criteri contabili sono una cosa molto bella, ma noi tutti qui ci occupiamo di economia, e l'economia è una cosa un po' più seria della contabilità. Se noi consideriamo gli 80 euro come una spesa aggiuntiva, noi siamo contabilmente corretti, ma mi dispiace, stiamo veramente brutalizzando il senso dell'economia. Quella è una riduzione fiscale e se viene conteggiato positivamente, la pressione fiscale cala poco, avete ragione, meno di quanto dovrebbe, ma cala. E quindi noi vogliamo essere ancora più forti e ancora più determinati in quella direzione, nella direzione cioè di usare le tagli della spesa non solo per disinnescare la salvaguardia, ma soprattutto per continuare a tagliare le tasse. E poi mi permetta sul secondo. Il secondo, che è un problema che è ancora più centrale. Noi stiamo, è l'ufficio, è la Presidenta del Consiglio che in stretto coordinamento col Ministero dell'Economia gestisce e fa il lavoro microeconomico sottostante alla revisione della spesa. E quello è esattamente il salto dalla tecnica alla politica. Queste sono persone che hanno un diretto mandato del Presidente del Consiglio, che è coerente con quell'impegno di ridurre le tasse, però non a caso, ve lo dico. Noi ridurremo le tasse su lavoro e impresa. Non aspettatevi riduzione dell'IMU, non siamo... No, capito, però intanto faremo quello. Per fare questo significa avere una manovra tale, ripeto, da coprire tutte le clausole di salvaguardia che scattano nel 2016, uno, due, tale da evitare gli aumenti inerziali di pressione fiscale che altrimenti ci sono, quelli a livello locale, lo abbiamo visto, è il dato che fa crescere la pressione fiscale anche nel 2014, e in più, dice Taddei, anche ulteriori sgravi e interventi sul costo del lavoro, sulla tassazione su impresa e lavoro. Cioè, significa, mettendo insieme le tre cose, una manovra che dovrebbe essere di oltre 20 miliardi per fare così. capito? Perché significa mettere insieme la clausola di salvaguardia, uno, due, gli aumenti inerziali, con i quali sono i tavoli aperti con le autonomie, perché non è che me ne invento io, e tre, ulteriore, sarebbe molto apprezzabile. Da parte mia io non chiederei di meglio che quello che abbiamo sentito da Filippo Taddei si traduca in concreto. Riccardo Puglisi che dice? Posso aggiungere un tema? Io direi che la cartina al tornasole di tutto ciò, capisco il ragionamento fatto da Taddei, la sequenza dei suoi argomenti, ma dicevo, il tema importante era stato sollevato a luglio da Cottarelli sul suo blog, nell'ultimo pezzo scritto sul suo blog, in cui sostanzialmente si lamentava di questo, che è un problema politico, perché c'è l'economia e c'è la politica. Il problema politico era questo. Il governo voleva utilizzare, o perlomeno la maggioranza parlamentare che sostiene il governo, quindi il PD, voleva utilizzare i risparmi di spesa per fare altra spesa. Fattispecie, la disputa era tra Cottarelli e Boccia, presidente della commissione bilancio alla Camera, sul fatto di utilizzare i tagli alla spesa per fare prepensionamenti. Il problema fondamentale è politico. Sinceramente dico una cosa cattiva e contemporaneamente buona, non vedo bene Taddei nel PD, perché il PD è innamorato della spesa pubblica. Nozione keynesiana malfatta, fastidiosa, è convinto che molti dentro il PD sono convinti che la spesa corrente sia quella che tiene Sa cosa le dico, Puglisi? Che il problema è che anche la destra la pensa così, come si è visto. Questo è il problema della tragico del nostro paese. Comunque, grazie a Taddei, grazie a Puglisi. Noi adesso ci sentiamo dopo il giornale radio, torniamo tra qualche minuto. Il segnale orario vi è offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Un libro, un film, una storia. Intrecci, passioni, avventure, amori. You are a cinema, a Hollywood treasure. Audiogrammi, in radio come al cinema, torna con nuove storie e nuove emozioni. La domenica sera, alle 20:10. Audiogrammi, le più belle storie dei film, raccontate in radio. Anche in podcast su radio24.it. Della belva. Ed eccoci qui tornati in diretta in questo sabato 4 di aprile, sabato santo, sono le 11:08, primi 33 secondi del studio di Radio 24 in Milano, i compari dei Conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. E Oscar Giannino. Cominciamo da una precisazione, perché vogliamo essere precisi e corretti, e quindi il Riccardo Puglisi, che è ricercatore all'Università di Pavia e che è intervenuto, ha anche una dichiarata affiliazione politica che dobbiamo ricordare. Certo, sì, è direttore dell'ufficio studi dell'Istat, per un giorno solo però. No, questa è una cosa che può capire solo chi ci segue su Twitter, perché abbiamo fatto un pesce d'aprile sulla nomina di Puglisi all'Istat. No, non è così, perché sostiene della direzione nazionale del momento politico di Corrado Passera, quindi per la precisione lo diciamo, faceva parte però di coloro che hanno redatto il rapporto del gruppo di lavoro Bordignon sui costi della politica. Andateveli a vedere sul sito del MEF, perché ripeto, io penso per esempio che tutte le proposte, c'erano 55 proposte tagliate per le sole partecipate pubbliche e municipalizzate di Cottarelli, e in quel caso erano tutt'altro che proposte non operative immediatamente. Lì ci fu un patto tra il governo e l'ANCI: non tocchiamo le migliaia di partecipate municipalizzate, e quindi non tocchiamo le 35.000 stazioni appaltanti e le 35.000 stazioni di procurement, cioè di acquisti pubblici, come se non fosse lì il più della corruzione italiana. E purtroppo il ritardo accumulato produce quello che ha prodotto, secondo me. Detto questo, sentiamo anche le vostre opinioni. Cominciamo con Silvano da Pavia. Prego, Silvano. Buongiorno a tutti, sì. Complimenti per la correttezza con cui trattate sempre gli argomenti. Volevo, rispetto agli argomenti molto importanti di stamattina, portarvi su qualche cosa di più terra terra. Sì. Non sarebbe opportuno andare a riferificare un pochettino i costi dei beni e dei servizi di prima necessità che tutte le famiglie si stanno sobbarcando da anni, e che in proporzione alle retribuzioni normali non hanno avuto quell'incremento subito di una botta di inflazione del 100% con l'avvio dell'euro, e quello continuiamo ancora a scontarlo. Come possiamo con un differenziale così pensare di stimolare i consumi e la produzione? Allora Silvano, lei ci invita, ma questa è un'ottima domanda, lei ci dobbiamo davvero tornare sopra con una riflessione ad hoc, perché nella parte di consumi delle famiglie c'è una rilevazione, la parte di che sono i cosiddetti consumi obbligatori. I consumi obbligatori sono quelli che hanno avuto i maggiori andamenti di apprezzamento, cioè sono aumentati, perché tutta la componente dovuta a tariffe amministrate, quindi prezzi locali, imposte locali, è molto significativamente altro che l'inflazione, è il contributo della politica alla lotta alla deflazione, quella, perché noi abbiamo avuto in alcuni settori, come per esempio le tariffe sui rifiuti, un aumento nel giro di 10 anni superiore al 100%, i trasporti idem, più basso, ma idem. Però quello che lei ci segnala, cioè una analisi sull'andamento dei prezzi su alcune fasce di consumi, questi sono quelli obbligati perché non ti puoi sottrarre le imposte, ma quelli di alimentare, consumi base e così via, prometto che lo facciamo, perché in effetti è un focus su, perché da una parte come si tiene insieme l'aumento della propensione al risparmio, questo primo iniziale segno di ritorno al segno più del reddito pro capite disponibile, e di che cosa in questo poi può arrivare davvero ai consumi e al rafforzamento però, della domanda. Però se posso, Oscar, questo mito per cui il cambio dell'euro con la lira sia all'origine di tutti i nostri mali, lo dobbiamo però smentire, perché francamente capisco che nella percezione comune ci sia stato una sensazione di questo genere. Tu lo sai che qua... la percezione comune è 1.000 lire, 1 euro, quindi sì, il doppio, questo è quello che per gli italiani è rimasto. Però dobbiamo smontarla, perché è scorretto, è pur vero invece che tutto quello che è stato risultato di tariffe, prezzi amministrati, invece è stato coinciso, ha coinciso con le volontà della politica. L'euro non c'entra, diciamo le cose come stanno. Che fa rima in azzo, perché così qualcuno sì, no, si esatto, così alla fine qualcuno riesce a capire il concetto. Silvana, diciamo. La Pordenone, prego Silvana. Buongiorno, io vi ringrazio di esistere, perché qui sembra di vivere in un altro pianeta, no? C'è il pianeta vero e il pianeta finto, voi siete il vero. Allora, cioè io il pianeta finto è quello di Capitan Ganassa, per capire, per usare un termine. Il Truman Show. Allora, io sono una piccola microcellula di quelle 95%, no? Io e mia figlia gestiamo un punto di ristoro, punto e basta, questo non chiudo perché veramente mi sto ammalando per questo. Cioè, incredibile, io non ho più parole, guardi, veramente. Sono grande amica dell'ufficio delle entrate, tutte quante, cerchiamo di tirare avanti come possiamo, ma questi sono folli, folli puri. Vi faccio solo un esempio, hanno rinnovato un sito, 8 mesi per rinnovare un sito sul turismo, hanno fatto copia e incolla come prima, e siamo in Friuli Venezia Giulia, risultato zero. Certo, come prima, niente. Noi che viviamo di turismo, questi vivono in un pianeta che non esiste. Però, purtroppo non ci sarò perché sono anziana, fra 100 anni, perché tanto sta crisi dura 100 anni, avremo solo Firenze, Venezia, tutto il resto campo da golf e i cinesi che giocheranno felici e contenti, perché in un piccolo ambiente, in questo paesino sperduto tra le montagne, il sindaco dice, beh, ma se comprano i cinesi sono brava gente, soprattutto non disturbano. Non fanno rumore. Lo dici poi con un tono che effettivamente è un tono che sembra che stia narrando una fiction, invece che è un pezzo di vita reale, purtroppo. Mi sono messa a piangere. Silvana, ti ascolto, grazie di esistere. Silvana, appuntamento tra 100 anni. Questo non, sì. ci saremo tutti e verificheremo il magnifico. Campi da golf e noi faremo gli schiavi. No, noi faremo le palle che vanno in buca con ogni probabilità. Grazie a te, Silvana. Allora, noi a proposito di Agenzia delle Entrate, una riflessione sul fatto che mentre non c'è ancora la soluzione alla polemica che sta a cuore molto a noi, quello dei dirigenti legittimi dell'Agenzia delle Entrate, ma però abbiamo acceso un piccolo falò per il quale alla politica riesce più difficile a contattare l'Agenzia delle Entrate, che voleva la sanatoria, e quindi dovranno fare dei concorsi, grazie anche al suo segretario Zanetti. Stiamo tentando di continuare a farla quella battaglia, però volevamo portarvi un caso pazzesco sul fatto che Equitalia e la politica hanno disposto a tutti gli italiani in difficoltà nella crisi programmi di rateazione per venire incontro al povero contribuente fino a 72 mesi. Ecco, e adesso vi facciamo illustrare il caso di un imprenditore di Napoli la quale ha messo la rateazione. Nella rateazione si vede arrivare i costi di riscossione e gli interessi di mora pari al 50% di quello che doveva pagare. Allora voi capite che lo Stato in ogni caso è ladro, è ladro, ma no, quantità alla mano, perché voi capite che si dice: se, caro mio, tu mi devi 200.000 euro, io te li rateizzo, però me ne dai 110.000 euro in più. Allora dice, ma, scusate, ma allora non avete capito, se io rateizzo è perché non ce l'ho. Io sì, ma ce ne dai in più, ma perché? Che cosa cambia voi l'onere di riscossione se io rateizzo, le rate le pago io? Cambia perché cambia in proporzione agli interessi mora. Gli interessi mora salgono e quindi l'onere di riscossione per lo Stato, anche se dal punto di vista micro non cambia in nulla, dal punto di vista degli effetti sulla bolletta da pagare da parte del contribuente cambia fino alle cifre che vi ho detto io. Ha senso? No che non ha senso. Tra un minuto iniziamo a raccontarlo. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità vi racconterò tutti i segreti e le storie dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 11.18 primi coi compari, i conti della belva. Caro Alberto. Mario. Allora, abbiamo con noi Angelo Pisani, avvocato, presidente dell'associazione Noi Consumatori, per esporci il caso di questo imprenditore. Io però l'ho prima richiamato, ma sentiamo da lui. Innanzitutto grazie di essere con noi in questo sabato di Pasqua, Angelo Pisani. Grazie a voi, buongiorno e auguri a tutti gli ascoltatori. Come funziona? Che cioè, si può arrivare a pagare interessi, si è ammessa la rateazione e onere di riscossione pari al 50% di ciò per cui, non avendoli da pagare subito, si è ammessa la rateazione, che mi sembra una contraddizione, contradizio in adiecto, si diceva in vecchi termini latini. Com'è possibile che funzioni così? Purtroppo in realtà, e non è soltanto il caso dell'imprenditore napoletano, è purtroppo il calvario intestino amaro di tutti i contribuenti italiani che si recano ad Equitalia, all'Agenzia delle Entrate, per dilazionare un debito che per motivi vari, quali la crisi economica, problemi familiari, problemi di criminalità, non hanno potuto pagare, vanno dallo Stato per mettersi in regola e anziché risolvere il problema, anziché pagare il debito, escono strozzati da questi uffici, perché alla somma dovuta si aggiunge almeno il 50-60% in più tra interessi di mora, interessi sulla sorte capitale, spese, agio di Equitalia, tutta una serie di voci in più che ovviamente non fanno altro che rendere impossibile il pagamento di un debito che già prima non era possibile pagare in maniera normale. Oh, ma ci sono state sentenze di Cassazione che mettevano un limite alle possibilità di pignoramento per effetto di titoli esecutivi messi da Agentrate e poi da Equitalia. Per quello che riguarda l'ammontare così pazzesco di oneri di riscossione che si sommano alle sanzioni, quindi l'aggio di Equitalia rispetto al totale dell'ammesso a rateazione, non c'è qualche disposizione di quelle stesse sentenze della Cassazione che consenta di considerare al contribuente un argine per poter dire: no, scusate, io la rateazione la faccio, ma questa percentuale di oneri aggiuntivi mi sembra in contrasto con il principio della legge? Ma c'è ancora di più, c'è una sentenza della Cassazione, la 4516 del 2012, che per esempio stabilisce che l'Equitalia come l'Agenzia delle Entrate devono specificare al contribuente il computo degli interessi, il tasso applicato anno per anno, quindi con una specifica veramente precisa, al contrario di quanto viene fatto, cioè a debito di importi generici che il contribuente ne capisce, ma al di là della sentenza della Cassazione che ho citato, c'è la legge, c'è lo statuto del contribuente. Ma 7. Sa che è lo statuto del contribuente è in Italia. No, in Italia ci hanno preso per il culo con lo statuto del contribuente, perché è una legge ordinaria e in realtà viene calpestata. Continuiamo ad avere gli obblighi fiscali per decreto legge. È una legge speciale che dovrebbe avere ancora più forza delle leggi ordinarie. Purtroppo, come dice lei, non viene applicata dai giudici. Perché c'è un problema, che i giudici ritengono sempre che il contribuente, c'è un piccolo pregiudizio, sia l'evasore di turno, senza capire che in questo paese l'evasore, il criminale, non è il cittadino, ma è il sistema della politica che ne inventa giorno per giorno una nuova per riscuotere soldi, per fare cassa, per poi sprecare questi denari pubblici in tante attività che noi vediamo. Eppure c'è questo pregiudizio da parte anche della magistratura nei confronti del contribuente, che ogni volta che va a difendersi, ecco, viene considerato come l'evasore di turno che vuole scappare, che non vuole pagare le tasse, per cui non vengono applicate tutte le leggi che pure ci sono. Se solo si applicasse alla lettera lo statuto del contribuente, ci sarebbe molta più chiarezza, ci sarebbe trasparenza e forse il sistema della riscossione non potrebbe fare quello che fa ogni giorno, infischiandosene delle leggi e della trasparenza. Oh, ma nel caso concreto, l'imprenditore napoletano che ha i 233.000 euro del debito fiscale che pagherà, come ammesso, a rateazione fino al 2020, si vede aggiungere i 108.000 euro di interessi di mora, dilazione e quote di riscossione, cioè di agio. E in quel caso l'imprenditore pagherà o impugnerà? Ma in quel caso l'imprenditore non può pagare, e dobbiamo sottolineare che non è l'imprenditore napoletano, sono tutti gli imprenditori italiani. Cioè tutti quelli che vanno a chiedere una rateizzazione, anziché una rateizzazione, diciamo, è come se stipulassero un leasing, un ulteriore finanziamento con l'Equitalia, chiedono per esempio il rateizzo di un debito di 10.000 e ne devono pagare 14.000. Quindi è veramente un indebitamento ulteriore di persone che, se non hanno la possibilità di pagare 10, mi spiegate come fanno a pagarne 14 o 15? È veramente impossibile. E questo meccanismo purtroppo, anche se previsto per legge, non fa altro che agevolare solo la criminalità, perché chi non riesce a avere un finanziamento, un credito, un prestito per poter pagare lo Stato, è costretto a rivolgersi all'usuraio di turno, a quelle società che sono lì pronte a intervenire per aiutarti, per, diciamo, illuderti di aiutarti, e poi ovviamente ti portano in quella catena mostruosa che è l'usura, da dove non ne esci più. Allora, Stato purtroppo butta la gente nella mano degli usurai. Io ho voluto collegare all'inizio la vicenda, le vicende di cui stiamo parlando, cioè questa cosa folle degli oneri di interessi, di mora e di quote di riscossione che si aggiungono per chi è ammesso alla rateazione fiscale, perché l'ho voluto collegare all'inizio alla faccenda dei dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate, perché in realtà mi prendo la responsabilità personale di quello che dico, perché non vorrei che finirò per essere, se continuo a rompere le scatole così, anche querelato dall'Agenzia delle Entrate. Però da quello che ho so io, nella ricostruzione che ho fatto insieme a un paio di colleghi su chi avesse scritto tecnicamente le norme di 2 anni fa, poi corretta l'anno scorso, su la facoltà concessa di rateazione fino a 72 rate mensili e poi ulteriormente aggiornate con la possibilità di estendere la possibilità fino a un massimo di 120 rate, da quello che noi abbiamo potuto capire parlando tra dirigenti del MEF e fonti riservate all'Agenzia delle Entrate, il testo di quella norma è stato esattamente prodotto all'Agenzia delle Entrate, non dal MEF. L'Agenzia delle Entrate è in Italia l'organo a cui è stata demandata il compito del tutto improprio di scrivere le norme tributarie, e poi è stato demandato il compito del tutto improprio di avere l'interpretazione autentica di quelle norme, di farlo con circolari, cioè con strumenti che dal punto di vista della gerarchia delle fonti normative non dovrebbero in alcun modo poter normare l'obbligo fiscale del contribuente, perché per l'articolo 23 c'è riserva di legge assoluta da questo punto di vista, E allora per questo io mi interrogo sul fatto che poi l'agenzia dica che è uno scandalo pensare di impugnare i documenti sottoscritti dai dirigenti illegittimi, quando in realtà anche le norme di cui stiamo parlando oggi, quelle che impensabilmente sono riservate a chi è ammesso alla rateazione fiscale perché non ha come pagare e lo Stato vuole il 50% in più, le hanno scritte loro, loro i dirigenti illegittimi che fanno la cena a me dicendo che è vergognoso che io chieda che siano impugnabili i loro atti. Io credo che sia vergognoso questa maniera di avere a che fare con noi contribuenti. Sì, è vero, alzo la voce, lo faccio apposta per irritare chi ascolta, per urticarvi, per farvi reagire, per farvi capire che non si può stare muti e impotenti quando ci spogliano dei nostri diritti più elementari, perché in questo caso chiedere il 50% in più a chi ha messo la rateazione significa che tu la norma per la rateazione che hai scritto tu dirigente delle entrate, ed è colpa della politica farlo scrivere a te perché dovrebbe scriverlo lei, significa che tu hai anteposto ancora una volta l'interesse della tua amministrazione al motivo per cui la norma ti è stato chiesto di scriverlo, cioè quello di venire incontro a gente che dalla crisi non ha i mezzi e non si vergogna di dichiararlo allo Stato per adempiere al proprio obbligo fiscale. Fino a che non inizieremo a ribellarci col giusto tono, ma nella legalità, a questa maniera dello Stato di demandare a tecnici non solo il diritto dovere di incassare, ma il diritto dovere di scriversi le norme su quanto ci devono guadagnare incassando, questo sarà un paese in cui per me il diritto tributario diventa la fogna della giustizia, la fogna della giustizia. Però può essere che io sbagli, vero avvocato Pisani? Purtroppo no, purtroppo, dico purtroppo perché ovviamente questo paese andando di questo passo va completamente allo sfascio. Ma un'altra contraddizione grandissima è anche la giustizia tributaria. Non è possibile che la giustizia tributaria, ecco, si svolga all'interno del del Ministero, non c'è giudice terzo, il giudice è pagato dalla stessa amministrazione che ritiene di sapere meglio di me qual è la mia cifra d'affare, il mio imponibile, la mia imposta, e che mi bolla come evasore. Quindi, e che mi chiede un terzo della cosa se voglio andare in contenzioso. Ma già questo la dice lunga, dove non c'è un giudice terzo, un giudice naturale che decide tra due parti processuali, il contribuente e l'ufficio, che dovrebbero essere uguali, ma che purtroppo non sono uguali, perché quando l'ufficio è una costola del, diciamo, del sistema giustizia che ti valuta, che ti analizza, quindi si capisce benissimo qual è la questione. Sentiamo, diciamo per sentiamo una cosa importante, sì, gli interessi e le spese si prescrivono in 5 anni, al di là delle tasse IVA e IRPEF, che secondo alcuni giudici si prescrivono in 10 anni, questi interessi e queste spese che vengono applicate dal sistema della riscossione si prescrivono in 5 anni, quindi è importante anche impugnare le pretese assurde, annose, che spesso vengono ricalcolate per interessi già prescritti. Già prescritti, quindi bisogna sapere a chi riceve di queste richieste che se sono passati 5 anni è prescritta la cosa e quindi è nulla. Donatella da Bergamo, prego Donatella. Buongiorno, io volevo approfittare, visto che l'argomento mi tocca da vicino, in quanto ho acquistato una casa. Questa casa io l'ho acquistata come prima casa e quindi ho pagato l'IVA agevolata, dopodiché mi è arrivata un'ingiunzione di pagamento in quanto la casa è stata considerata casa di lusso e ho ricevuto l'ingiunzione di pagamento di 200.000 euro di mora, tra mora, IVA da pagare, eccetera, eccetera. Ora, mi hanno spiegato che se non pago immediatamente questa cosa poi incorrerò posso rateizzare, però avrò tutta questa maggiorazione, eccetera. Ma la mia domanda vera è, io che mi occupo di altro nella vita e che sono andata ad acquistare una casa, mi sono rivolta ad un notaio il quale ha sottoscritto che io acquistavo questa casa, ha fatto tutti gli accertamenti del caso e mi ha fatto pagare un'IVA al 4%. Ora, com'è possibile che io mi trovi adesso nella condizione di dover vendere questa casa perché non sono nella possibilità di pagare questa multa che mi è arrivata? Ma chi ha la responsabilità, cioè di chi è la colpa, voglio capire, perché succede tutto questo? Cioè il notaio che io mi sono rivolto, ho pagato fior di soldi un notaio che mi ha fatto firmare un atto che mi permetteva di acquistare una casa. Quindi guardi, io ho proceduto... Donatella, lei pone una questione che però è una questione di plurima complessità, perché mi pare di capire che la sua prima domanda sia se il notaio sia stato corretto nei suoi confronti, e questo tocca un tema su cui i notai che ci ascoltano con la campagna, che loro sono le soglie assolutamente invalicabili della difesa assoluta della legalità, è una domanda molto importante, ovviamente, perché è Naturalmente, Donatella, a me tocca dirle che il primo giudice della qualità dei pareri professionali che ci si trova come operatore di un contratto a ricevere o a commissionare sono i committenti, quindi sa com'è, ma purtroppo in questo caso la responsabilità è sua, cioè lei non poteva pretendere che qualcun altro le dicesse guarda che quell'immobile è di lusso, cioè se il professionista non è stato all'altezza lei doveva rendersene conto o immagina che debba essere lo Stato a tutelarla, perché io per esempio non la penso così. Naturalmente sugli effetti poi della sanzione fiscale, cioè del sovrappiù fiscale che deve pagare e non è in grado, questo mi dispiace, però ripeto, ci ha fatto una domanda che varrebbe da sola una trasmissione, perché significa come gli individui sono in grado di valutare gli effetti delle transazioni giuridiche, che rapporto hanno con il professionista, il rapporto, qual è la correttezza deontologica del professionista e poi alla fine chi paga. È un po' l'ABC di tutta come si campa nelle società complesse la domanda di Donatella. Allora io ringrazio intanto l'avvocato l'avvocato Pisani che è stato con noi, e ci sono un bel po' di telefonate dalle quali ricominciamo, perché poi giriamo pagina e andiamo a parlare di Expo, tra delusioni, speranze, tante che ci sono ancora, e davvero che cosa bisogna aspettarsi da Expo tra 4 settimane. Tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui tornati in diretta 11.35 e 59 secondi questo sabato di Pasqua, i compari dei conti della Belva, Carlo Alberto, Mario e Oscar. Ricominciamo dalle vostre telefonate prima di andare a parlare dell'Expo, le vostre telefonate. Dunque cominciamo con Alessandro da Padova, prego Alessandro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire, sono rimasto abbastanza basito dall'intervento del responsabile economico del PD, Filippo Taddei. Sì, esatto. Mi sembra che in sostanza abbia detto che si sono accorti che per un anno hanno sbagliato l'approccio della spending review, perché quando arrivano poi ai ministeri si sono accorti che gli fanno le pernacchie quando chiedono le riduzioni di costi. E adesso in 6 mesi spera di rifare tutto quello che non ha fatto in 20 anni. Mi sembra che siamo quasi nel rischio di denuncia dell'abuso di credulità popolare qua. Credulità popolare non è perfetto, è perfetto. Alessandro, più o meno anche noi condividiamo, però attualmente sa com'è, è Pasqua, il figlio di Dio risorge, io dico che dovrebbe essere limitata a lui questa facoltà, invece la politica italiana è semplicemente fatta di ripetizioni del miracolo pasquale ogni giorno a detta dei politici, sai com'è, non è difficile convincere loro che non sono ciascuno il figlio di Dio, però più o meno hanno questa specie di coazione a ripetere questa cosa normalissima che è la resurrezione, come devo dire. No, anche Berlusconi la pensava così, come sa. No, però qui c'è una distinzione importante, Mario, no? Fra economia e contabilità, vogliamo sì. Commentarla? Allora, Taddei ha detto, io sono assolutamente d'accordo, che l'economia è, diciamo, è cosa più importante della contabilità. Lo ha detto a proposito di bonus 80 euro. Sì, no, allora, proviamo a lasciarci alle spalle questa polemica abbastanza stucchevole su dove va appostata la somma degli 80 euro, se è prestazioni sociali in denaro o minori tasse. Per me è un trasferimento, e un trasferimento come tale, diciamo, a natura di spesa pubblica, anche se lo dice Eurostat. C'è da dire un'altra cosa però. Visto che l'economia si occupa della allocazione di risorse scarse, che poi è il famoso trade-off, no? Volete burro o cannoni? Quindi alla fine dovete scegliere, vi mettete su una curva di indifferenza, di trasformazione e scegliete. Il problema è che in Italia molti politici, e temo anche la maggior parte della popolazione, vogliono burro, cannoni e cannoli. Per cui vogliono, non ci sono vincoli. Allora io vorrei dire, ma non tanto a Taddei quanto a tutti quelli che difendono a spada tratta questo importo da 10 miliardi. Mi spiegate qual è stata l'efficacia completa e tangibile di questa misura che costa 10 miliardi di euro che ogni anno devono essere finanziati e che potevano essere allocati ad impieghi alternativi? Io sono anche disposto a concedervi che si tratta di minori tasse, così potete dormire tranquilli la notte. Questa però è una considerazione contabile, perché a me questi 80 euro intanto mi inquietano perché vanno finanziati ogni anno e irrigidiscono il bilancio pubblico. Poi non vedo il beneficio tangibile della loro presenza, perché mi dovete spiegare dove sta questo beneficio tangibile. E poi mi ricordano sinistramente la famosa eliminazione dell'IMU sulla prima casa che ha piagato il governo Letta fino a farlo morire. Voi ricorderete, abbiamo perso un anno con questo balletto indecente dicendo adesso che non c'è più l'IMU sulla prima casa ripartirà il paese, sarà tre volte Natale, eccetera eccetera. Poi abbiamo distrutto di tasse per poter fare le coperture e dall'anno dopo si chiamava Tasi e il suo gettito è pure aumentato. Quindi l'economia non è contabilità, perfetto Filippo Taddei, sono assolutamente d'accordo con lei, anzi con te visto che ci diamo del tu. Però vi prego, cercate anche di considerare che l'economia si occupa di allocazione di risorse scarse e per me questo bonus è un drammatico errore. Allora, ancora Antonio da Latina, prego Antonio. Buongiorno a tutti. Dunque io chiamo perché si sta consumando praticamente una tragedia. L'altro ieri il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva del versamento dei 500 milioni di euro come da legge di stabilità da parte dei concessionari del gioco legale pubblico. Stiamo parlando del gioco. Ok, allora io sono un gestore di giochi, mi lasci fare una piccola premessa per capire chi sono, quale figura rappresento. Io ho cominciato a lavorare 34 anni fa in questo settore, quando c'erano i flipper, i jukebox, i calcio balilla e i videogiochi. Nel 2004, quando allora Tremonti, ministro delle finanze, intravide la possibilità da parte dello Stato di lucrare sul gioco allora illegale d'azzardo, praticamente ci ha messo nella condizione di dover lavorare con le slot machine. Cioè le slot machine per, nel mio caso è un'imposizione da parte dello Stato, perché io non ho altri prodotti di gioco con cui lavorare che possono darmi una redditività. Fatta questa premessa, le condizioni economiche alle quali sottostiamo noi da parte dello Stato è che dobbiamo dare il 55% di quello che troviamo nel cassetto allo Stato sotto forma di PREU e poi c'è una quota AMS. Oggi con questo, questa nuova, che poi non c'è neanche un nome, non è una tassa, no? Noi ce la chiamano come riduzione degli aggi, vogliono ulteriori 500 milioni dei già 3 miliardi e 700 milioni che si prendono. Questi 500 milioni si ripercuotono sul prelievo che fa lo Stato con un ulteriore 20-30%, perché poi dipende dalla redditività dell'apparecchio. Quindi lo Stato se va a prendere fra il 75 e l'80% di quello che è contenuto nel cassetto. Questo significa condannare a morte 4 aziende, 12.000 operai, 55.000 esercizi pubblici che detengono slot machine nei propri locali. Metta in conto almeno un 50% dovrà chiudere perché non ci avranno i soldi neanche per pagare l'affitto del locale. Ci metta pure che questa legge è scritta malissima perché non rispetta la garanzia costituzionale della proporzionalità della tassazione, perché si tassano indifferentemente tutte le slot machine di una certa quota di 1.270 euro ciascuna, 1.177 se non ricordo male, indipendentemente dalla loro redditività. Cioè se lei c'ha un apparecchio dentro l'oratorio, faccio un esempio anche se non ci posso stare chiaramente per la legge Balduzzi, oppure ce l'ho in via Nazionale a Roma, una mi incassa 10.000 euro l'anno, l'altra mi incassa 100 euro l'anno, pagano tutte e due la stessa somma, il che è inconcepibile, è incostituzionale. E praticamente noi siamo ai ferri corti perché noi non ce li abbiamo, non li possiamo dare ai concessionari che devono versarli allo Stato. I concessionari dicono allo Stato guardate che questi non ci danno i soldi da darvi, ma noi non glieli diamo in virtù dei contratti, cioè noi siamo tutelati da un contratto che abbiamo col concessionario il quale dice che dobbiamo dargli. Antonio, Antonio, aspetta, perché io di questo dovrò fare per forza, l'ho fatto parlare per esporre la questione che ci ascolta, però questo merita un approfondimento, farò di sicuro una puntata della versione di Oscar per questa questione del gioco legale, perché come sa ci sono opinioni totalmente contrastanti su questo settore. Resta il fatto che per chi nel rispetto della legge fatta dallo Stato esercisce questo tipo di attività, adesso è di fronte a una parete verticale di settimo grado e senza chiodi né corde. Questo è il punto, ce ne occuperemo a parte, io intanto la ringrazio. Veniamo al punto finale della nostra trasmissione di oggi, che è relativo al capitolo Expo. Questa settimana sono usciti gli aggiornamenti, ohimè, del ritardo molto forte delle opere e dei padiglioni di Expo. Si parla di un 9% di opere finite. Per il resto io apprezzo molto Giuseppe Sala, che ha detto in un paese di scarica barile di tutti i ritardi e di tutti i malfunzionamenti mi assumo io la responsabilità. Giuseppe Sala è il capo manager, di un manager privato che ha prestato la sua professionalità a Expo. Senza di lui non ci sarebbe neanche quell'Expo che ci sarà, e in un paese di scarica barile io apprezzo che Giuseppe Sala dica una cosa simile. Resta il fatto che l'ottimismo non so quanto più sia possibile fondato a questo punto, e noi abbiamo fatto una scelta a quel punto un po' singolare oggi, nel mentre chiedevamo a voi se ancora vi aspettate, siete fiduciosi di Expo o siete delusi. Abbiamo scelto di approfondire che cosa può essere Expo dal punto di vista della Caritas, che è presente in Expo con un punto di vista critico ovviamente diverso da quello della magnificazione commerciale, per così dire, e di chiedere anche a dei ragazzi che fanno servizio civile. Caritas è uno dei soggetti che da sempre è abilitato al servizio civile nel nostro paese, che fanno servizio e lo faranno anche in Expo, di chiedere loro perché, che cosa si aspettano di farlo. Comincerei proprio da Irene, che appunto farà il servizio civile all'Expo. Buongiorno Irene, di essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori. Perché lei farà questa scelta in Expo e che cosa si aspetta? Ma la scelta è evidentemente una scelta personale, nel senso che credo che questa sia un'opportunità da vedere in termini diversi rispetto a quelle che la società credo che in questo momento si sta aspettando, nel senso che prima di tutto il servizio civile permette di entrare in contatto con delle realtà che noi solitamente non incontriamo nella nostra vita, e permette ai ragazzi di mettersi in gioco e conoscersi meglio. Inoltre l'Expo, appunto, visto dal punto di vista di Caritas, è la possibilità di raccontare e di far presente alle persone che si incontrano, che verranno appunto a visitare l'Expo, invece metterle in contatto con un modo diverso di vedere a questo tema, in particolare concentrandosi sul diritto al cibo e su chi ancora nel mondo non ha appunto l'accesso alle risorse. Quindi, come dire, è dare un punto di vista più critico, nel senso positivo del termine evidentemente, ad una manifestazione, ad un evento che evidentemente non è solo un evento commerciale. Francesco, 20 anni, chiedo anche a te quello che ho chiesto a Irene: il tuo punto di vista critico, la tua attesa di un evento che si è spostato su altre cose rispetto a quelle che già ci deludono prima di cominciare, e speriamo che non ci deludano alla fine, qual è il tuo punto di vista? Sì, buongiorno. Allora, il mio punto di vista, come dire, è sicuramente quello di vedere una grande occasione in Expo. Una grande occasione in Expo, però con appunto il punto di vista particolare di Caritas. Sicuramente interessante questo porsi a metà strada, ecco, tra le critiche, come dire, non costruttive che si rischiano soprattutto in questo periodo, non sono state tante critiche, ma dall'altro lato anche il rischio, come diceva anche Irene prima, della fiera commerciale, tutti belli, tutti bravi, autobus, andiamo a casa. Esatto. Allora, Francesco, senti, io ti chiedo un'opinione su un sondaggio, che a me ha molto colpito, un sondaggio fatto dall'Istituto Toniolo insieme all'Università Cattolica, proprio sui giovani e Expo, ed è un sondaggio in controtendenza rispetto al pessimismo e alle critiche di quest'ultimo periodo man mano che ci si avvicina a Expo, perché dice questo: il 78% dei giovani di questo campione si dice Expo ottimista, il 74,5% è convinto che aumenterà attrattività di Milano e dell'Italia, il 70% che aiuterà a costruire l'immagine del brand di Milano nel mondo, eccetera eccetera eccetera. Però insomma sembrerebbe un dato molto lontano dalle critiche che si leggono sui giornali. Secondo te è davvero così? Cioè, nel campione, lascia perdere Francesco quelli che la pensano come te, la tua esperienza di vita personale, la scelta che fai nel servizio civile e nella Caritas, se tu dovessi vedere un campione intorno a te di giovani della tua età, quindi rappresentativo di come la pensano e come conducono la loro vita e delle loro scelte, al di là dell'ambiente che tu hai deciso di frequentare perché è quello in cui ti riconosci, la pensano davvero così secondo te sull'Expo? Ma io credo che in generale ci sia una grande aspettativa legata ad Expo, poi questo anche scatena le critiche, perché chiaramente se un evento non ha un minimo di aspettativa nessuno se ne interessa, ma quindi appunto c'è sicuramente da parte dei giovani una grande aspettativa per questo evento, per la grande, in tutto per la grande vetrina che sarà, e ma anche insomma per quelle che saranno le tematiche trattate. Secondo me i giovani in generale hanno una, appunto, una grande aspettativa per questo evento. E quindi secondo te è un sondaggio che finalmente fotografa questa realtà? Può essere, io lo dico col tono dubitativo. Secondo me sì. Secondo perché me sì. Io evidentemente frequento troppo i troppo critici, come sono io, e questo è il mio difetto. Allora, grazie Irene, grazie Francesco. Adesso andiamo all'informazione stradale, ma dopo un secondo torniamo con Luciano Guazzetti che appunto ci dà il punto di vista della Caritas sull'Expo a questo punto. Strade. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 11:51:32, stiamo parlando di Expo, delle polemiche di queste settimane, man mano che ci si avvicina e siamo indietro, ma anche dei punti di vista diversi di chi comunque immagina e opera perché Expo debba essere diverso da ciò che probabilmente potrebbe deluderci. Ed è con noi per parlare Luciano Guazzetti, quindi direttore della Caritas Ambrosiana, qui a Milano, e io a lui chiedo, abbiamo prima apposta sentito i giovani volontari del servizio civile della Caritas che si impegnano in Expo e che mi hanno confermato che questo sondaggio dell'Istituto Toniolo sui giovani, su questo 78% di giovani che si dice Expo ottimista, a loro non li sorprende, a me aveva sorpreso. A Guazzetti, voi cosa vi aspettate in concreto? Siete stupiti di queste polemiche oppure fin dall'inizio il vostro è un approccio completamente diverso? Beh, intanto buongiorno a tutti. Dall'inizio noi abbiamo affrontato il tema se partecipare o meno, non con disinvoltura, cioè ci abbiamo pensato veramente, ci siamo confrontati con Caritas Internationalis e Caritas Italiana, e quindi abbiamo approfondito l'opportunità che poteva offrire Expo. Naturalmente, visto che ci siamo dentro, abbiamo valutato che era un'occasione, come è stato detto, da cogliere. Ci siamo confrontati anche con quelli che non ritenevano di starci dentro, quindi fin dall'inizio ci siamo resi conto che era problematico affrontare questo, entrare in questo luogo che in fondo è un evento laico ed è un evento molto commerciale, perché chi partecipa investe dei soldi, i paesi costruiscono dei padiglioni, le imprese ovviamente vanno per presentare i loro prodotti, e noi abbiamo invece pensato di entrare per presentare l'esperienza che Caritas svolge in tutto il mondo. In fondo tutte le Caritas del mondo, insieme ai missionari, ai cooperanti, ai volontari che vanno nel mondo, ma soprattutto le realtà locali, stanno vicino alle persone povere, e la gran parte sono persone che hanno difficoltà a vivere una vita dignitosa perché non hanno più la terra, non hanno l'acqua, non hanno un lavoro, e molto è legato al cibo, perché senza la terra che consente l'autosostentamento, che magari viene portata via da multinazionali o da governi che hanno bisogno di terra per produrre i propri alimenti o per produrre la propria energia, perché sappiamo che gran parte degli alimenti ormai vengono coltivati per produrre energia, perché c'è una grande fame di energia. Allora, davanti a tutte queste contraddizioni, noi abbiamo detto portiamo all'interno di Expo, che ha un tema fantastico, nutrire il pianeta, energia per la vita, ma che ha un sottotitolo altrettanto provocatorio, che è una domanda: è possibile garantire all'umanità un'alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile? Cioè, noi vorremmo dire che prima di tutto la domanda va affrontata in modo serio. I governi, le multinazionali, anche i soggetti della società civile come noi, dobbiamo tutti dare una risposta a questa domanda. Perché se oggi che siamo 7 miliardi di persone, 800 milioni sono malnutriti, anche per delle regole economiche, non solo perché c'è la carestia, perché ci sono delle guerre, perché solo l'8% degli 800 milioni di persone hanno fame o muoiono di fame perché c'è qualche situazione più grande di loro, il resto è tutto determinato da regole economiche o da finanza che specula sul cibo o dal fatto che non ci siano infrastrutture in quei paesi, la catena del freddo, le strade per portare il cibo, e quindi provocano una serie di sprechi che poi appunto creano questo scandalo della fame. Noi dentro Expo queste cose vorremmo dirle. E infatti mi sembra anche giusto, e del resto noi, io per questo oggi ho scelto di farvi parlare, di farvelo esporre, perché la mia è un'opinione che nel pieno rispetto pensa che non sia un caso che da 20 anni a questa parte, e in particolare da quando abbiamo la globalizzazione estesa anche alla Cina, non sia un caso che poi in questi ultimi anni noi abbiamo avuto il maggior numero di centinaia di milioni di persone su questo granello di polvere che va nel mondo, che è nell'universo, che è la Terra, il maggior numero in termini di centinaia di milioni di persone uscite dal livello di sussistenza dell'economico, cioè dal rischio di morire di fame, e lo abbiamo avuto perché? Contro il mercato, secondo me grazie al mercato abbiamo avuto questo fenomeno strepitoso. Io sono convinto, sbaglierò, che sia possibile un approccio non conflittuale tra ciò che il mercato, il libero sistema dei prezzi fa da una parte, e dall'altra l'approccio di chi come Caritas continua giustamente a indicarci con un pesante dito la responsabilità di tutto il mondo avanzato e del mercato stesso quando non è ben regolato sul determinare gli squilibri di chi ancora il diritto al cibo non ce l'ha. Però io penso che si faccia insieme, mentre quando io sento parlare della finanza che strangola, delle multinazionali che strangola, effettivamente io la penso diversamente. Però sì, tu che dici che non... Io voglio solo dire un'altra cosa, che se vogliamo aiutare il mondo dobbiamo smetterla con questa retorica dei chilometri zero, perché se abbiamo bisogno di importare ed esportare cibo lo dobbiamo alla logistica internazionale e anche un po' di finanza che spesso protegge dai rischi. Per esatto. Cui l'Expo è anche la celebrazione del mercato mondiale del cibo. Va bene, comunque io dico grazie intanto ai giovani volontari della Caritas, a quello che la Caritas farà. Vedremo naturalmente nelle prossime settimane quante saranno forti le delusioni per i padiglioni che non verranno finiti, ma non vogliamo fare i gufi. Abbiate tutti una buona Pasqua, anche voi dovete fare gli auguri, ragazzi, è diritto. Auguri! Ecco, auguri. E naturalmente buone tasse anche il giorno di Pasquetta! Fratelli d'Italia, l'Italia.